Il versione italiana tal canzonetta limes ia io spero ancora del malti che net amar quinta musica o versi uma Angelo Pace accompagnata dall'orchestra classica canta Stella Cordina. Non so lì.